Gli italiani riescono molto a creare nel mondo, e molte delle persone qui radunate ne sono protagonisti attivi, un capitale sociale, un capitale di relazione. Dispiace solo che siamo un po' meno capaci per ora di crearlo in Italia, questo capitale sociale di fiducia degli uni negli altri. E io mi auguro che si possa un po' per volta spostare quel fronte di intolleranza che ha caratterizzato tanta parte della recente vita italiana, spostarlo perché non separi chi è di destra da chi è di sinistra, anche se le differenze possono essere importanti, ma separi essenzialmente due parti: coloro che pagano le tasse, assolvendo quindi ai loro doveri di cittadinanza, e gli altri. Credo che questo contribuirà, ne sono sicuro, a dare un senso di cittadinanza comune. Quando lasceremo ad altri nei prossimi mesi il governo del Paese, io spero che con queste attività di cooperazione, la cui risonanza nel Paese deve essere sempre maggiore, e con qualche banale principio di gestione interna, spero che lasceremo ad altri un paese un po' meno rassegnato e un po' più rasserenato.